Nella Mishnah siamo arrivati al secondo capitolo, Perek Bet, Mishnah Vav, la sesta Mishnah del secondo capitolo del trattato di Sukkah. E qui vediamo la regola che riguarda il mangiare nella Sukkah. La Mishnah inizia citando un'opinione minoritaria, che è citata per nome, del nostro Chacham Rabbi Eliezer. Il Tana della Mishnah, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer. Disse Rabbi Eliezer, o Rabbi Eliezer dice, Arba Esre Seudot, 14 sono i pasti, Chayav Adam Lechol Basukah, che la persona è obbligata a mangiare dentro alla Sukkah. Perché 14? Perché due pasti al giorno per i 7 giorni della festa di Sukkot. Achat Bayom, come dice la Mishnah appunto, una di giorno, uno dei pasti di giorno, ve'achat ba'laila, e una seudà e un pasto di sera. Nella Gemara si spiega la motivazione di questa halakha espressa da Rabbi Eliezer. Secondo Rabbi Eliezer, visto che la Torah dice che bisogna risiedere nella Sukkah e questo è considerato come se dicesse Teishevu, risiederete, che en taduru, come lo fate nella vostra dirah, come risiedete a casa. In maniera simile bisogna considerare il risiedere nella Sukkah. Quindi, visto che normalmente una persona mangia un pasto al giorno e un pasto la notte, la sera, dovrebbe fare la stessa cosa nella Sukkah. Quindi Rabbi Eliezer pone proprio un limite, diciamo una definizione a questa cosa di mangiare nella Sukkah e dice che bisogna fare 14 pasti nella Sukkah nel corso di tutta la festività di Sukkot. Mentre invece, Vachachamim Omerim, gli altri maestri della Mishnah dicono e sono dell'opinione che in realtà en la davar kitzba, la cosa non è limitata o definita in questa maniera, assolutamente. Non è un limite assoluto, bensì i Chachamim sono dell'opinione che se una persona vuole mangiare, deve mangiare nella Sukkah, ma non che è obbligata a mangiare il pasto, simile a quanto uno farebbe a casa, appunto, per lo stesso motivo che diceva Rabbi Eliezer, ma traendo una conclusione differente, visto che a casa se la persona vuole, mangia, e se per qualche motivo non vuole mangiare, non mangia. Anche nella Sukkah non deve essere obbligato a mangiare. Sì, se volesse mangiare lo dovrebbe fare nella Sukkah, ma non che è un obbligo di fare 14 pasti nella Sukkah. A questa regola però anche i Chachamim sono d'accordo che c'è un'eccezione. Qual è l'eccezione? Chutz, al di fuori, eccetto Mille Lei Yom Tov Rishon Shelachag Bilvad. Eccetto la prima sera del Chag, della festa di Sukkot. Lì invece siamo obbligati in maniera assoluta a mangiare nella Sukkah, simile a come siamo obbligati a mangiare la Matzah la sera di Pesach. E infatti il motivo per cui siamo obbligati a mangiare nella Sukkah è legato a quello di mangiare la Matzah a Pesach. Visto che c'è scritto Chamisha Asar, il 15 del mese di Nisan si mangia la Matzah. E il 15, se è scritto lo stesso termine, Chamisha Asar, il 15 del mese di Tishri, il settimo mese, si fa Chag HaSukkot, e riguardo a Pesach è scritto che si fa Chag HaMatzot sempre il 15, allora i maestri capiscono da questo utilizzo dello stesso termine che va ad alludere che nella stessa maniera in cui nella prima volta che è scritto 15 riguardo Pesach l'obbligo di mangiare la Matzah è un obbligo assoluto, anche l'obbligo di stare nella Sukkah la prima sera di Sukkot e mangiare è anche un obbligo assoluto. Ma per ciò che riguarda gli altri giorni non c'è obbligo assoluto. Chi vuole mangiare mangi nella Sukkah, chi non vuole mangiare può anche stare a digiuno o mangiare in una maniera che non è obbligato a stare nella Sukkah, come spiegheremo più avanti. Ora si aggiunge un'altra halakha a nome di Rabbi Eliezer, sempre nella stessa Mishnah Vav. Ve'od amar Rabbi Eliezer, disse inoltre Rabbi Eliezer: Mi shelo achal le Lei Yom Tov Rishon, colui che la prima sera di Sukkot non ha potuto, comunque non ha mangiato nella Sukkah, Yashlim potrà recuperare Belel Yom Tov Aharon, nell'ultima sera di Moed. Cos'è l'ultima sera di Moed? L'ultima sera di Moed è Shemini Atzeret, che tecnicamente non è più Sukkot. Ma Rabbi Eliezer dice, anche se non è più Sukkot e non deve neanche mangiare nella Sukkah, deve comunque fare il recupero delle 14 seudot, delle 14, dei 14 pasti, non avendo fatto la prima sera, quindi magari ne ha fatti solo 13, fa la 14esima, considera il pasto di Moed, di Shemini Atzeret, come la 14esima seudà di Sukkot. Ma i Chachamim anche qui non sono d'accordo. I Chachamim dicono, Chachamim Omerim, en la davar tashlumin, la cosa non può essere recuperata. Le seudot, che per loro, come abbiamo detto prima, la seudà della prima sera è un obbligo assoluto che può essere fatto solo la prima sera e non c'è possibilità di recupero. E i maestri applicano a questa halakha quanto detto nel versetto del re Salomone, al Zenemar, Meuvat lo yuchal litkon. A volte c'è un meuvat, ovvero un errore, qualcosa che va storto, che non può essere aggiustato, non può diventare dritto. Vechesron lo yuchal limanot. C'è a volte una mancanza che non può essere nuovamente contato, cioè non può essere recuperato. E quindi applicano a questa halakha questo versetto. Andiamo alla Mishnah Zain, la settima Mishnah. Mi shehaya rosho verubo basuka. Si fa un caso per capire la halakha di quando si deve stare nella Sukkah, se bisogna starci interamente dentro, coperti dalla Sukkah, oppure se ci sono altre possibilità, magari se qualcuno ha una Sukkah molto piccola, appunto il caso che è illustrato dalla Mishnah è se una persona si trova rosho, la sua testa, verubò e la maggior parte del suo corpo, basuka. Quindi la persona è seduta praticamente quasi interamente nella Sukkah, ma il tavolo, veshulchano betoch habayit, il tavolo stesso è dentro la casa. In questo caso ci sarebbe una discussione tra le due grandi case di studio, Bet Shammai Poselin. La casa della Yeshiva di Shammai dice no, è invalida, questo stare nella Sukkah non è considerato un stare nella Sukkah se il tavolo sta nella casa. Bet Hillel Machshirin. Mentre invece Bet Hillel, la casa di studio di Hillel, dicono kasher, è permesso, quello che la persona sta facendo è considerato stare nella Sukkah. Qual è il motivo di questa discussione? Perché secondo Bet Shammai c'è il problema che la persona poi, diciamo, si faccia tirare, tra virgolette, dal suo tavolo, nel senso che se il tavolo sta dentro la casa, alla fine forse anche la persona finisce dentro la casa. E quindi la halakha in realtà segue Bet Shammai. E qui vediamo una conversazione tra i maestri della casa di Hillel e i maestri della casa di Shammai. Vediamo come si svolge questa breve discussione, conversazione. Amru lahen Bet Hillel levet Shammai. Dissero quelli del Bet Hillel a i chachamim del Bet Shammai. Lo kach haya ma'ase, non è forse accaduto un fatto dal quale si potrebbe appunto evincere che noi Bet Hillel abbiamo ragione. Quale sarebbe stato questo fatto? Shalchu ziknei Bet Shammai veziknei Bet Hillel, gli anziani maestri forse di una precedente generazione delle case di Shammai e delle case di Hillel, andarono levaker et Rabbi Yochanan ben Hachorani. Andarono a trovare uno dei grandi maestri della sua epoca, Rabbi Yochanan ben Hachorani. E questo fu durante Sukkot. Tra parentesi, c'è una mitzvah durante Sukkot o comunque durante tutti i regalim, tutte le tre festività, di fare una sorta di pellegrinaggio a trovare i propri maestri di Torah. Comunque, finita la parentesi, andarono a trovare questo maestro, un mezza uhu, e lo trovarono Shehaya Yoshev Rosho Verubo Basuka, che lui si trovava proprio come questo caso che abbiamo citato, ovvero lui si trovava la sua testa e la maggior parte del suo corpo all'interno della Sukkah, però Veshulchano Betoch HaBayit, la sua tavola, il suo tavolo era all'interno della casa. Velo Amru Lo Davar, e gli anziani di Bet Hillel, gli anziani di Bet Shammai non gli dissero nulla. Con questo Bet Hillel vorrebbe dire: abbiamo ragione noi, perché sia i maestri di entrambe le Yeshivot, sia di Bet Shammai che di Bet Hillel, non si sono espressi contro questo comportamento di Rabbi Yochanan ben Achorani, e il fatto di comportarsi in una determinata maniera o il dimostrare di essere d'accordo con un comportamento è un'indicazione alachica quando è qualcosa che viene da parte dei grandi Chachamim. Quindi anche senza un insegnamento diretto, guardate che così va bene o così non va bene, anzi ancora più forte dell'insegnamento diretto è il comportamento, il fatto accaduto. E qui Bet Hillel dicono: abbiamo un fatto accaduto che supporta la nostra opinione, perché non gli hanno detto niente a lui, quindi sicuramente va bene. Allora Amru lahen Bet Shammai, risposero a loro quelli della casa di Shammai: Misham Reaya, è proprio da lì che vorreste portare una prova? Forse non vi ricordate, ma dissero sì qualcosa. Afhem Amerulò, in realtà gli dissero la seguente cosa. Gli dissero così: Im ken hayita noheg, se è questa la maniera in cui ti comportavi sempre, lo kiyamta mitzvat sukkah mi amecha, non hai mai messo in atto, adempito alla mitzvah di Sukkah in tutta la tua vita. Cioè, se questo è il modo in cui tu l'hai fatto, non hai mai fatto la mitzvah bene come si dovrebbe fare. E quindi la stessa storia diventa una prova per la casa di Shammai, e così rimane l'alaha. Proseguiremo la prossima volta.